passato, un trattato sugli sbagli. C'è una tigre sul letto, continua a parlarmi di come fare a cambiare. Fa paura a bruciare per sempre o per poco, ma io sono fuoco. C'è qualcosa che mi brucia, ma io sono fuoco. Tra le fiamme in piedi nuda, ma io sono fuoco. Quando è tutto da rifare, io mi posso trasformare. Pensi che mi faccia male, ma io sono fuoco. Non ho più.